Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. L'indomani a scuola, pur non facendo nulla di eclatante, sono circondato da un'aura che mi illumina. Probabilmente le sue alunne hanno cominciato ad annusare una tresca tra me e la loro professoressa. E io, da maschio imbecille, sono convinto di dissuaderle. E invece non faccio che confermarglielo. Sono Mauro, vivo a Roma, sono cresciuto in una città del nord e ho due figli che vivono a Roma con me. Sono le 4 e 8 minuti, questa è Radio 24, ma non dagli studi di Via Monterosa 81 o 91? 91, non dagli studi di Via Monterosa 91, cominciamo benissimo, ma dallo studio datoci in prestito da Ferrari, non la macchina, le cantine, all'interno di Vinitaly Italia. Che essendo in Italia è già Italia, giusto? Qui con lo studio è una specie di club privé, però è magnifico, grande lusso, grande eleganza. Tra l'altro, commentavamo prima con Tiziano Bonini, un Vinitaly che pre-crisi, oserei dire. Potrebbe essere del 2007, considerando gli stand che si vedono, che sono a metà tra degli alberghi di lusso di Dubai e degli alberghi di lusso di Cesenatico, ad esempio. Siamo tutti qua nello studio, nessuno parla, ma siamo tipo in 15 in questo studio. Comincia tra l'altro a fare un gran caldo. Allora, oggi la puntata funziona così. La puntata funziona che, visto che ci hanno avvisato un po' tardi, la puntata di oggi parla della storia che doveva essere, diciamo, in programma dallo studio di Milano. È una storia bellissima e particolare, infatti sono arrivati pochi messaggi perché a pochissime persone è capitato di avere una relazione in giovane età con un proprio maestro, insegnante o professore. Questa è la storia di Mauro, che parla proprio di quella cosa lì, di quando al liceo, ed è per questo che è diventato immediatamente il mio idolo, al liceo ha avuto una relazione sentimentale vera e propria, d'amore di fatto, durata qualche mese, con un insegnante del suo liceo, non la sua, ma con un insegnante del liceo di 8 anni più grande di lui. È arrivato qualche messaggio, come quello di Simone, che dice: a me è successo 4 anni fa, 10 anni di differenza, molte cose in comune, molte situazioni difficili da gestire. Ci siamo innamorati e siamo stati insieme un po'. Poi è finita. Il fatto che fosse stata una mia allieva era l'aspetto più ininfluente, un semplice ininfluente elemento. 349-238-6666. Se vi è capitato mai da, ripeto, professori, maestri, insegnanti o istruttori di qualsiasi disciplina di innamorarvi di un vostro allievo. Quindi, in sostanza, il racconto di Mauro parla di questa cosa qui, parla di questa storia d'amore, devo dire, abbastanza fuori dal normale, con una sua insegnante. La seconda parte, invece, è tutt'altro. Siamo a Vinitaly, quindi si parla di vino, pensate un po', non mi sfugge veramente niente. L'esperimento però che tentiamo oggi è questo: essendo io astemio, dove per astemio si intende uno che non beve, no, magari qualcuno mi sconosceva il termine, nella seconda parte di questo programma, a partire dalle 4.30, ci sarà un esperimento in diretta in cui io berrò del vino, non per ubriacarmi, ma per capire perché dovrei bere del vino. Cioè, sono anni che mio padre mi dice: quando sarai grande e uscirai con i tuoi amici e i tuoi amici berranno una birra, tu cosa berrai? Io da bambino avevo paura che non avrei mai avuto amici, non è stato così, però evidentemente qualche problema nel non bere vino ce l'ho avuto e ce l'ho tuttora. Quindi questo più tardi, però, alle 16.30 in avanti. Intanto siamo in ritardo, vero già? Siamo già in ritardo. Tra l'altro ringraziamo Davide Ciocia, che si porta sempre il suo orologio da casa, altrimenti non avremmo un riferimento orario. 349-238-6666, siamo al Vinitaly, ma questa è la storia di Mauro. È il 1993 ed è quasi Natale. Sono all'ultimo anno del liceo, ma non mi interessa più niente. La scuola, lo studio, i miei compagni, l'ambiente. Sono stanco marcio di quel posto. Non ne voglio più sapere, ma nemmeno me lo confesso. Tiro la carretta con abnegazione, dicendomi che durerà pochi mesi e una volta passati, in qualche maniera mi butteranno fuori. Nemmeno loro ne possono più di me. Sperano solo che ne combini qualcuna di grossa per potermi mandare via. O almeno io spero tanto che la pensino così. Un giorno dopo l'altro, un giorno in più e un giorno in meno. Bisogna cercare di passarci attraverso a giorni così. Erano diventati come dei cerchi sempre più stretti, pieni di insidie. Tanto tra pochi mesi sarà tutto finito. Intanto in un'altra classe c'è una giovane professoressa di italiano, latino e greco. È appassionata di teatro. Le sue alunne, che sono tutte mie amiche, sono carine con me e le dicono di fare un corso di teatro e di coinvolgermi.

da allora, e per qualche anno, appunto, come ti ho raccontato, l'ho sentita. Dopodiché è sparita dalla mia vita completamente, fino a qualche anno fa, quando, grazie alla posta elettronica, così ci siamo risentiti e ci siamo rivisti. Per caso, ma è stato molto strano, era meglio se non ci fossimo rivisti, devo dire. Sì, cioè, quindi sì. Della serie le cose chiuse, teniamole chiuse? Le cose chiuse, teniamole chiuse, io sono assolutamente per questo partito. Sì, sì, sì. Senti, sì. Invece tu adesso hai chiaramente un'altra vita, immagino, hai dei figli e quindi avrai anche una compagna. Come si chiamano i tuoi bimbi? Si chiamano Olmo e Ada. Oh, hai scelto dei nomi comuni? Sì, si chiamano così. Senti, invece scusami, a me è sfuggito un dettaglio, poi non voglio veramente entrare troppo nel merito, però la questione è, proprio torniamo alla prof 5 secondi, perché guarda, siamo lì tutti, che è dall'inizio della puntata che siamo lì che vogliamo capire esattamente cosa è successo. Quando lei si è sposata, tu dici sono stato il suo addio al nubilato. Avete fatto una festa a due oppure siete incontrati dopo? Sì, diciamo che c'è, cioè io quella sera sapevo che si sarebbe sposata l'indomani e le ho telefonato per farle gli auguri e lei mi ha detto vabbè, però potremmo anche vederci. Hai preso la ritmo 60 CL. Esatto, ho preso la ritmo 60 CL e insomma ho detto va bene, quindi sono andato a... L'hai raggiunta. Senti, fai l'attore Mauro? Sì, sì, sì. Teatro, cinema, TV, quello che capita? Quello che capita, esattamente, quello che capita, tiriamo a campare, insomma. Senti, dimmi e poi ti lascio andare che devo chiudere. Dimmi la prossima cosa che fai, dove possiamo vederti, se ce l'hai già in programma. Sarà a Roma a maggio. A maggio di quest'anno qua? Di quest'anno, sì, sarà a Roma. Di quest'anno qua. Dici cos'è? È una commedia nuova. Non lo vuole dire, non lo vuole dire. No, è una commedia nuova. Va bene, va bene. Mauro, ti ringrazio moltissimo per averci fatto sentire un po'... Le acque, Matteo. Bravo, per averci fatto sentire un po' tutti fighi come te a 17 anni. Ti ringrazio. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao Mauro. Ciao. Sono le 16:27, è già tardissimo, però è arrivato un altro messaggio del genere, che era, eccolo qua, istituto tecnico, 17 maschi e 5 femmine, di cui 2 fidanzate con 2 prof, credo siano ancora insieme oggi, dopo quasi 20 anni. Adesso la borsa, poi rimanete lì, che c'è il primo esperimento di astemia in diretta su Radio 24. Voi siete qui. Lo dicevo, è il primo esperimento di astemia, o meglio, di un astemio che cerca di capire e di conoscere il vino in maniera un pochettino più approfondita di quanto non senta girando attraverso gli stand di Vinitaly. È per questo che ringrazio Camilla Nunelli, che è produttrice Ferrari, che è qui in studio insieme a me. Grazie mille Camilla per essere qui. Insieme a me e a Camilla e alle 45 persone che sono in studio ma che stanno in silenzio, ci sono dei bicchieri di vino. Le faccio sentire? Perché mi sembra giusto, no? Che tra l'altro abbiamo pochissimo tempo, quindi non perdiamoci in chiacchiere, Camilla. Allora, mi dici che vini abbiamo qua? Sì, partiamo con un classico, quello che è un po', diciamo, la nostra etichetta base, il Ferrari Brut. Ok, tieni presente che devi parlare come se fossi un bambino di 6 anni, nel senso che non ho assolutamente idea di... Brava, prima tu hai detto ad esempio un termine, no, non hai detto barricato, hai detto millesimato. Ma senti che roba, che vuol dire... È una cosa semplicissima. Ok. Questo perché ad esempio quello che abbiamo davanti a noi, okay, ora il Ferrari è invece creato dalle uve di più annate. Ok, posso assaggiarlo immediatamente visto che abbiamo pochissimo tempo? Devo alzare un po' il mio... No, vado Filippo così? Posso inondare il microfono di vino? Brut, abbiamo detto. Ferrari Brut. È buonissimo. È un po' secco. È un po'... Esattamente, è secco, l'ho beccata. Perfetto. È secco. Che differenza c'è tra secco e l'altro? Il contrario di secco è? Beh, dolce. Abboccato, amabile. Anche amabile. Qui, scusami, però non capisco che differenza c'è tra questo che ho appena bevuto, che è secco, amabile. No, sono scusa. Entrambi sono entrambi secchi. La differenza fra i due, quindi tra il Ferrari Brut e il Ferrari Perle, è l'invecchiamento, innanzitutto, nel senso che il Ferrari Brut sta sui lieviti mediamente 24 mesi. Sta sui, scusami, lieviti? Diciamo che invecchia. Ok, perfetto. A volte 2 anni. Hanno dei tagli, esatto. 2 anni. Due anni, mentre questo Ferrari per lei è una vendemmia 2006, quindi per darti un'idea stiamo parlando di invecchiamento già di 6 anni. Quindi questo è più buono. Sì, questo è più buono, è più anche buono. L'altro mi sembrava dalla faccia che tu abbia apprezzato. No, quello era buonissimo, figuriamoci. Com'è che vendiamo roba di maggiore e minore qualità? No, non è una questione di maggiore e minore qualità. No, è una questione di gamma, è una questione di occasioni di consumo diverse, è una questione di apprezzamento, è come diverso, vendere, anche di canali di vendita. È come vendere diverse. Una station wagon e una, è un'utilitaria, giusto? Esatto, ognuno ha... Detto una banalità enorme sulle automobili. Vado con il, questo abbiamo detto? Adesso con il Ferrari Perlée, quindi un millesimato, come tu hai ben imparato. Sono entrambi Chardonnay in purezza. Uschia, questo è forte però. Per fortuna non c'è la webcam. Questo è più forte, no? Quanti gradi fa sta roba? No, in realtà hanno entrambi 12 gradi. Avvicinarsi al vino è un percorso lungo. Quindi avrei dovuto mangiare qualcosa, ad esempio. A proposito, perdonami. Un'ottima perdonami, invece... Camilla, io prima di essere completamente ubriaco, devo ricordare perché è venuto un signore che è riuscito a entrare nello stand forzando, credo, la sicurezza che c'è giù, perché sembra di stare in un fortino. Ha forzato la sicurezza dicendo: sono Alberto, ti ascolto mentre taglio la vigna. Loro fanno Soave, che è un vino, giusto? Sì, è un vino Soave. Dice: devi salutare per piacere Giorgio Lovato che sta lavorando la vigna. Io non faccio queste cose, però vedere uno che ha sfondato la sicurezza, e mi immagino Giorgio Lovato che è lì con le cuffiette a tagliare la vigna. A tagliare, cosa si fa la vigna? Sì. Beh, c'è tutta una serie di lavorazione a seconda della stagione. Che in due si minuti non anche. Facciamo in... no. Si pota. Andiamo avanti, abbiamo un rosé. Questo io sul rosé so che è un misto di rosso e bianco. Sì, diciamo che è un po' più complicato di così, però alla grande può andare. Davide Ciocia si è messo a ridere. Diciamo che se volessimo parlare un po' più tecnico, è una cuvée, in questo caso, di Pinot Nero e Chardonnay. Questo è il Ferrari per le Rosé, sempre vendemmia 2006. E abbiamo gradazione? Scusami, l'unica sempre 12 gradi, no? L'unica roba su questo siamo costanti. Sento già la lingua in difficoltà. Va bene, va, il Rosé si beve? Beh, per merenda. No, per, sì, perché no? In aperitivo magari una merenda un po' ritardata. Ok, andiamo con rosé. In realtà può andare benissimo anche a tutto pasto. Anzi, il per le rosé tiene anche abbinamenti. Tutto pasto è una definizione. È una definizione, ma facile, cioè, dici, questa la capisci facile, senza questa sottotitolo. Questa la capisco anch'io, figurati. Vado, andiamo con rosé. Vai. Ma quanto se ne deve bere per assaggiarlo? No, in realtà molto poco. Bisogna riuscire a bagnare tutta la bocca. Ok, vado. Forse... forse esagero un po' con no, il... Va già molto meglio. Va già molto meglio, sì. Questo è buono. No, non che gli altri non lo fossero. No, no, è che si avvicina di più ai gusti di una stemi, nel senso che è un po' dolce. Ma in realtà, in termini di tipologia, è sempre secco. Però effettivamente può essere così un po' più morbido. È un po' più vino, forse, degli altri Trento Doc che abbiamo assaggiato prima. Cosa vuol dire che è un po' più vino? Cioè... Diciamo che è un po' più vinoso, perché il Pinot Nero è un'uva a bacca rossa. Quindi c'è comunque un po' anche di tannino in questo vino, quindi è un po' più magari morbido, per questo lo senti più facile. Mi hai lasciato veramente allo stop. Il tannino che cos'è esattamente? Intanto tannino... c'è una signora giapponese che ci fotografa, spero sia una cliente. Non girarti. Cinese. È cinese, perfetto. Vendiamo forte con la Cina. Ma devo dire che è un mercato che stiamo approcciando, che te deve credo, ancora... Deve... Certo. Vorrei vedere. Se cominciano a bere quelli, ragazzi, qua... È fatta. Altro che crisi, è 2008. Sto esagerando col vino, andiamo ultimo. Cambiamo completamente tipologia, cambiamo territorio, dal Trentino ci spostiamo in Umbria per il Montefalco Sagrantino. E questo... ci piace anche se in Umbria? Certo che ci piace. No, credevo che noi fossimo solo per il Trentino. No. No, assolutamente. No, okay. Questa è una tenuta appunto che abbiamo, la tenuta Castelbuono, che abbiamo rilevato nel 2001, in cui produciamo questo vino molto particolare, come vedrai, molto ricco, molto potente, molto longevo. Dimmi una qualità, un aggettivo per definirlo. Sicuramente potente è il primo. Quando potente lo assaggerai te ne renderai conto. Capirò che è potente. Va, Davide Ciocia mi fa così con la mano, come dire. No, diciamo che il Montefalco Sagrantino è un vino che va bevuto in abbinamento, venuto pasteggiando in abbinamento anche a piatti piuttosto importanti. Camilla, mio papà sono 37 anni che cerca di farmi bere. Ci sei voluta tu e una diretta dallo stand del Ferrari per andare. Abbiamo già finito? Dai, bevo e andiamo. Ostia. Questo è veramente potente, era la parola. Ah, cioè non era ostia, la parola era potente. Camilla, abbiamo finito. Grazie mille e... una battaglia persa. No, forse no. Mi consulterò con tuo padre. Grazie a tutti quelli che erano qui. La storia di oggi è la storia di Mauro e parlava, non lo so, dai, ci sentiamo domani. A domani, a domani. Chiudo. Alle 8 del mattino il piazzale della Capitaneria di Porto di Fiumicino è ancora deserto. Il sole è già alto e la temperatura di circa 28 gradi. Nonostante questo, io sono lì, con i brividi e le mani fredde. Come sempre, alla vigilia di un esame.